Strane cose hanno detto in questi brutti giorni gli zelatori della partecipazione italiana all'attacco alla Jugoslavia, soprattutto quelli di parte governativa. E vi si capisce anche, costretti a difendere una posizione da cui dovevano in qualche modo prendere le distanze, perché sono tutti buoni, miti e democratici e di loro non farebbero male a una mosca, si sono dovuti arrampicare sui vetri. Si sono dovuti improvvisare esperti di storia balcanica, che è meno facile di quanto sembri, e non hanno trovato di meglio che riciclare in salsa democratica le più viete argomentazioni militariste. Prima tra tutte quella per cui il ricorso alle armi non ha, Dio ne scampi, il fine di dare inizio a una guerra, ma quello semmai di concluderla, per cui va considerato in sostanza un'iniziativa di pace, che è l'argomento classico di tutti gli aggressori dai tempi dell'invenzione dell'ascia di pietra scheggiata in poi. Oppure hanno dovuto far finta di credere che il problema principale per la NATO fosse davvero quello di por fine a un'intollerabile oppressione etnica, come se non fosse fin troppo facile prevedere che il primo effetto dei bombardamenti sarebbe stato quello di spingere i serbi a stringersi attorno a Milosevic, con l'ovvia conseguenza di una feroce escalation dei massacri nel Kosovo. Evidentemente, da chi ritiene che per insegnare a un paese i principi della democrazia e della tolleranza etnica sia utile radere nel suolo le città, non ci si può aspettare un granché sul piano intellettuale. A me vi dirò, ha fatto particolarmente impressione un intervento che ho ascoltato alla nostra radio l'altro ieri mattina. Era l'intervista a un tale Colaianni, che sembra sia responsabile estero dei DS. Parlava costui con una certa spaventevole ragionevolezza, anticipando più o meno gli stessi concetti che il capo del suo governo, del suo e nostro governo, avrebbe sviluppato quel pomeriggio in Parlamento. Spiegava che i patti vanno rispettati, che non si poteva permettere al governo serbo di prendere per il bavero la comunità internazionale tutta e che i bombardamenti appunto erano motivati dalla volontà eminentemente umanitaria di por fine a una guerra feroce. E poi di fronte all'obiezione del nostro Piero Scaramucci, che proprio non si rassegnava a vedere in quella ragionevole luce quella che in definitiva è la prima aggressione armata a uno Stato sovrano in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, ha sfoderato un argomento che evidentemente considerava decisivo. Vede, ha detto in tono sempre più ragionevole, noi potremmo anche decidere di diventare un paese neutrale. Non lo siamo, ma potremmo sempre diventarlo. Poi dovremmo assumercene anche le conseguenze, quelle di essere un paese senza un ruolo. E infatti puntualmente D'Alema ha ripetuto alla Camera poche ore dopo che al di fuori della sua collocazione internazionale, quella europea e soprattutto atlantica, l'Italia non avrebbe alcun ruolo da svolgere. Sarà. E noi in realtà sappiamo tutti che se il nostro paese in un momento qualsiasi dell'ultimo mezzo secolo avesse deciso di diventare neutrale, avrebbe dovuto fare i conti con un certo numero di strutture organizzate, per esempio la celebre gladio del celebre senatore Cossiga, quello che appoggia l'attuale maggioranza, che avrebbero trovato il modo di farci cambiare rapidamente idea, ma queste saranno polemiche superate. Il fatto è che non è facile capire quale ruolo i nostri governanti assegnino al paese. A me occhio croce sembra che ne abbiano fatto il servizievole collaboratore dei gendarmi del mondo, sempre pronto a offrire le sue basi, il suo sostegno logistico, se del caso la sua partecipazione diretta alle avventure che costoro in piena autonomia decidono di intraprendere, che gli abbiano assegnato cioè un ruolo eminentemente servile. Loro evidentemente ritengono di poter esercitare da quella posizione una qualche influenza sulla gestione generale della crisi e di poter sfruttare il proprio ruolo di servi per influenzare in qualche modo i loro padroni. È una pretesa straordinariamente futile, che nella sua fatuità rivela l'arroganza di tutte le mosche cocchiere. Il guaio che in queste ragionevoli futilità ci si esibisce mentre la guerra continua. E non c'è niente di ragionevole né di futile nella guerra, nella sua capacità di sommare infamia a infamia, di ridurre la vita umana a merce di scambio, di misurare i propri successi sulla quantità di sofferenze che si riescono a infliggere agli altri. E da questa realtà drammatica, brutta, tutta carica di dolore concreto, chi governa riesce quasi sempre a prescinderne, proprio perché assolto nella contemplazione del proprio ruolo. E chi non riesce a prescinderne, naturalmente, sono le vittime. E per questo, ragionevole o no, noi saremo sempre al loro fianco.